La Cicogna Nera. 8:42 minuti, un orario sicuramente un po' insolito per le sonorità popolari e musicali del nuovo millennio qui a Radio Onda Rossa ogni giovedì sera alle 21, ma questa sera le sonorità CPT Balkan Music ci hanno lasciato spazio libero e allora ci prendiamo un quarto d'ora di più. Vi do subito i contatti in apertura che sono sempre gli stessi: 06 49 17 50 24 ore al giorno, Radio Onda Rossa è aperta per tutti, se volete parlare sia nel contesto del programma sia se avete voglia di dire qualsiasi cosa potete chiamarci. C'è una mail, lacicognanera@radioondarossa.info, se volete scriverci, o ancora se vi piacciono le musiche del mondo, le musiche popolari contemporanee nel nuovo millennio, potete sempre ascoltarle in podcast. Ogni tanto ci provo a metterle, sono all'indirizzo, se non mi ricordo male, www.ondarossa.info/trx/lacicognanera. Allora, due settimane fa, perché la scorsa settimana non siamo andati in onda, siamo stati in Uzbekistan, siamo stati un po' nelle sonorità dell'Asia centrale, in queste terre che finiscono con lo Stan, che è un suffisso un po' persiano per indicare il luogo, per indicare la zona geografica dove abitano le persone. E poi in fine, come due ultime canzoni, ce ne siamo andati nella confinante Mongolia, Repubblica di Tuva, che nonostante sono così vicine, hanno un retaggio culturale estremamente differente dalle repubbliche delle Stan, che sono molto influenzate dalla musica persiana. Oggi ripartiamo quasi da dove ci siamo lasciati due settimane fa, ossia abbiamo ascoltato in ultimo, come ultimo ascolto, una collaborazione tra i Kirgilkin, che sono un ensemble tuvano, e i Lian, che sono invece un ensemble persiano che abitano nei dintorni di Los Angeles. Oggi ripartiamo sempre dalla Repubblica di Tuva, questa piccola repubblica autonoma che si trova nella Siberia del Sud, nella Siberia del Sud a confine con le montagne delle Altai, una regione tra l'altro che dovrebbe essere stupenda, e la confinante Mongolia, la Repubblica di Tuva e la patria degli Hunhurtu, o come leggiamo su Wikipedia si dovrebbe pronunciare Kunkurtu, che forse sono il gruppo di musica difonica, di musica armonica, di throat singing più famosi al mondo, sicuramente quelli che hanno fatto conoscere prima all'Occidente, in Germania, questo tipo di questa particolare tecnica. In questa canzone che ci andiamo ad ascoltare ora la ritroviamo con un'altra grandissima cantante, sciamana la potremmo definire, che arriva sempre da quelle parti e che però dovrebbe abitare in Austria da molti molti anni. Dunque, una collaborazione tra gli Hunhurtu e Sainko Namchilak del 2008, arriva dalla Yaru, un'etichetta tedesca molto attenta alle musiche del mondo. L'album si chiama Mother Earth, Father Sky, e la canzone pronuncia permettendo Metz J. ritmo dell'incedere del galoppo dei cavalli. Il cavallo è un elemento fondamentale nella steppa mongola e anche tuvana, nella realtà, nel giorno quotidiano di questa popolazione. È il primo mezzo di trasporto sicuramente, è anche rappresentato a questo punto negli strumenti che suonano gli Hun Kurtu. Avete sentito il Tosh Pulur o comunque l'Igil, che sicuramente è lo strumento più rappresentativo della Repubblica di Tuva, e che è praticamente un liuto a manico lungo con due corde solamente, suonato con un archetto, dunque a mo' di violino, e su alla cima della testa una testa di cavallo proprio intarsiata. Questo proprio a rappresentare il rispetto estremo che questa popolazione ha per il cavallo. E in tutto ciò Sainko disegna delle melodie pentatoniche, ci fa dei vibrati, insomma, come lei sa fare. Lei ha studiato sia musica classica, arriva dalla stessa regione vicino a Tuva, non so, comunque dalla Siberia, poi è andata a Mosca a studiare al conservatorio, ma quello che è più importante è che Sainko è una grande conoscitrice delle tradizioni lamaiste e sciamaniche, dunque è stata sempre addentro a proprio alla terra, alla non mi viene il termine, proprio alla natura dei posti in cui è cresciuta e al suono che emettono i sciamani e che emette la sua terra. E forse è quella che ha saputo meglio rappresentare l'incontro tra queste tradizioni folcloriche della Siberia del Sud e le moderne sonorità del rock, dell'elettronica, della musica contemporanea. In effetti a un certo punto si racconta che, non si sa se sia vero, comunque a un certo punto Sainko viene malmenata da dei gruppi neonazi, quasi che la fanno morire, così decide di lasciare la sua patria e se ne viene a vivere in Austria, precisamente a Vienna, dove fa sicuramente uscire l'album che la Cicogna Nera ritiene essere il suo migliore. È proprio agli albori del 2000, si chiama Stepmother City, ed è proprio l'incontro tra la musica folclorica, quindi la musica del suo paese, e l'elettronica. A questo proposito, da questo album, dalle musiche del mondo nel nuovo millennio, pubblicato per la Ponderosa, andiamo ad ascoltarci la danza dovrebbe essere la danza, non mi ricordo, di qualcosa. Intanto la sentiamo, poi cerco il nome. Io sono una donna di campagna, dice Sainco a proposito di questo Stepmother City, che proprio nella campagna ritrova l'humus e la linfa vitale, la madre insomma. Questo perché lei che è venuta nelle metropoli europee, nonostante le ami profondamente, le sente fredde, le sente distanti, le sente ostile, ci dice, e le sente delle vere e proprie stepmother, ossia delle matrigne. Questo è uno sicuramente dei suoi album più belli, che racchiude la sua filosofia di quella sciamanica, quella folclorica della Siberia del Sud e la contemporaneità, l'elettronica, i suoni liquidi elettronici. Allora, andiamo avanti, proprio vicino alle terre natie degli Hun Curtu e di Sainku arriva un altro personaggio molto strano che il sottoscritto ha conosciuto veramente da pochissimi giorni. Si chiama Vladisvar Nadishana o Nadishana e ha un sito estremamente interessante, solamente lui, perché non è solamente un musicista ma è uno studioso, è un appassionato di visual art, dunque è un appassionato di culture antiche. Proprio a questo proposito, quella che stiamo ascoltando in sottofondo è un brano del suo ultimo album dedicato proprio alla cultura dei Kutzebar. C'è una cultura, un'antica cultura che risale praticamente, se non sbaglio, circa al 3500-3100, vedo i geroglifici qui sul web e me li datano 3078-3100 prima di Cristo, 3080, dei geroglifici particolari perché rispetto insomma a quelli a cui siamo abituati sono dei geroglifici in 3D. Si ritiene che la Kutzebar, l'Ancient Kutzebar Civilization, è stata una delle prime forme di vita in tutto il mondo e quindi soprattutto in Siberia, e si chiama così solamente per il fatto che Kutzebar è una città e un paesino dove sono stati ritrovati queste prime reliquie, e questo sta proprio, diciamo, sopra la Repubblica Indipendente di Tuva, vicino al lago Baikal e tra il lago Baikal e i monti Altai. E lui arriva da queste zone e tenta di riportare in vita, di studiare, di far conoscere agli altri proprio questa Ancient Kutzebar Civilization. A proposito, vi dicevo, il suo sito www.nadishana con la H in mezzo tra S e A .com è un sito estremamente interessante, perché oltre alla sua discografia voi potete trovare gli strumenti che lui suona e soprattutto che lui vende. Insomma, è un appassionato di strumenti etnici, è una quantità enorme che il sottoscritto non aveva mai visto prima, di strumenti alla cicogna nera anche sconosciuti. Lui li mette in vendita e da quello che ho visto i prezzi sono anche abbastanza onesti e abbordabili. Dunque, se qualcuno è appassionato di strumenti così esotici, etnici, che non ha mai visto prima, che non sa nemmeno il modo di farli funzionare, questo è il sito giusto dove dargli un'occhiata e dove magari acquistarli. L'unica cosa che vi raccomando è di stare attenti alla spedizione, perché data la fragilità, penso, data la fragilità di quasi tutte queste strumentazioni, l'imballaggio sicuramente e la forma del trasporto sono fondamentali, e ve ne parlo per l'esperienza diretta, perché quest'estate la cicogna nera si è fatto spedire un po' di tampure dall'India e nonostante l'imballaggio della carissima FedEx, che si vanta di essere una compagnia internazionale con tanti di aerei al seguito, ma tutte le tampure, ahimè, sono arrivate rotte senza nessuna risposta purtroppo dalla FedEx. Nulla da dire, comunque state attenti soprattutto a comprare gli strumenti da internet, non tanto per le sole o per il pagamento, quanto piuttosto perché questi strumenti sono estremamente delicati, dunque interessatevi innanzitutto, assicuratevi prima di tutto dell'imballaggio. Dunque, vi dicevo, strumenti musicali, tra cui anche alcuni inventati dallo stesso Vladisvar. C'è un flauto che è stupendo, che è ricco di armonici, sembra quasi di sentire gli armonici che abbiamo sentito in Sainco, sembra quasi di sentire il canto difonico in questo strumento, che pensate è un lungo tubo diritto con una cannula e che sembra che faccia parte dei pastori bulgari. Sembra che questo strumento veniva proprio suonato in principio, non lo so, può essere fino a pochi decenni fa, dai pastori della zona della Bulgaria, ed è un suono spettacolare proprio perché ha una modulabilità e una ricchezza di armonici unica al mondo. Detto questo, musica, strumenti, visual art, masters, avete la possibilità di andare là, lui tiene anche dei corsi, e soprattutto questa Ancient Kutzebar Culture, da cui noi ci andiamo ad ascoltare proprio l'inno nazionale del Kutzebar.

approfittiamo alle 9:10, quando siamo in onda da una mezz'oretta circa, un saluto all'amico Benedetto che ci sta ascoltando in diretta, e continuiamo a parlare di questa ancient Kutzebar culture, di questa civilization, una delle prime forme di aborigeni che sono mai esistite. Allora, a questo proposito cerco di tradurvi un attimo che cosa c'è scritto riguardo a questa cultura sul sito di Nadishan. Precisamente lui riporta un passo di un libro chiamato Embryonal Stage of Development of the Soul in the Ancient Kutzebar Culture del 2001 di un autore sinceramente impronunciabile, e lui ci dice: per gli antichi Kutzebarans il tempo non era lineare, e questo era possibile, non era possibile accertarsi con esattezza qual era l'inizio e qual era la fine della loro cultura. Questo è possibile perché loro vengono dal futuro. Allora, alcune reliquie di questa civilizzazione appartengono, pensate, al Mesozoico e al Paleozoico, benché la scienza umana ritiene che in questo periodo la razza umana non fosse ancora scesa in terra. E questo paradosso, in questo passo di questo libro, dice è possibile ed è assegnabile al fatto che nell'antica Kutzebar, che gli antichi Kutzebarans erano abili a creare il loro proprio tunnel di realtà. Vivevano in differenti luoghi, in differenti epoche e in differenti posti. Noi ci fa molto appassionare questo discorso. Io non so fino a che punto sia veritiero, nel senso che ho dato uno sguardo sul web e di letteratura scientifica riguardo a questi Kutzebarans, a questa civiltà aborigena, non ce n'è molta. Ci sono giusto lui e un'altra artista di questa area, che si chiama Julia Surba e che fa proprio degli oggetti di design che sono estremamente appassionati del Kutzebarans. Però in un'intervista lui ci dice circa gli strumenti che lui ha usato. Ad esempio, abbiamo sentito l'inno nazionale del Kutzebar, ma se questi sono vissuti nel 3000 a.C., insomma, Vladislav ce lo deve un po' far capire in che modo ha potuto ascoltare i suoni e riproporli. E lui dice non è che proprio ha fatto questa operazione, ma ha fatto quella dello stesso principio che usavano i Kutzebarans, nel senso, nei loro geroglifici è disegnato un tubo lungo e dritto con cui loro facevano, probabilmente suonavano la loro musica. E Vladislav usa a suo proposito un tubo flessibile, lungo, ricco di armonici, anche questo, e lui ci dice che usa lo stesso principio di questi Kutzebarans, che dicevano: tu sei nella tua vita quello che sei, chi sei precisamente in inglese, scusate, ma il mio inglese lascia un po' a desiderare. Chi sei nella tua vita dipende solamente da te. Sei un tubo flessibile o un ghost catcher, cioè una chiappa fantasmi. Infatti si pensa che questo tubo lungo serviva proprio a prendere, ad acchiappare i fantasmi per questa popolazione. E gli antichi Kutzebaran usavano questo principio di trasformazione degli oggetti e di se stessi. Cioè ogni oggetto domestico era potenzialmente, ci dice ancora Vladislav, trasformabile in qualsiasi strumento musicale, e nella stessa via essi potevano trasformare la loro vita. Per finire, continua Vladislav, ci dice: noi non seguiamo questa cultura, ma la sviluppiamo. Dovrebbe essere proprio la sviluppiamo. E questo ci fa capire come sia possibile che Vladislav ci proponga l'inno nazionale di questa cultura. Io non so, ripeto, il confine tra la letteratura scientifica, un portato scientifico, e quanto di passione, quanto di mistero Vladislav Nadishana vuole farci apprendere, vuole immetterci nella nostra testa e nei nostri cuori. Quello che è sicuro è che i loro geroglifici e il design di questa antica popolazione è veramente carino. Quindi, se volete approfondire, www.nadishana con l'h in mezzo tra la s e la.com, o un'altra artista che risponde al nome di Julia Surba. A questo proposito vi faccio ascoltare giusto un tramezzino piccolino di questa Water Song, si intitola, che fa parte sempre di questo album pubblicato nel 2006 da Vladislav, che si chiama The Traditional Music of Ancient Kutzebarans. allora questa è la canzone d'acqua di Vladislav Nadishan. Noi proseguiamo con le nostre sonorità popolari contemporanee quando sono le 9:15. Ancora ne abbiamo un po' di canzoni da proporvi. Questa volta iniziamo a lasciare quest'area della Siberia che è veramente lontana dalla musica russa tradizionalmente intesa e iniziamo ad andare insomma verso i nostri territori, anche se non molto. La prossima artista che ci ascoltiamo si chiama Zulia Kamalova. In questo album la ascoltiamo con i suoi The Children of the Underground, il suo gruppo, in un album del 2007 chiamato Three Night. La canzone invece si chiama Children Bird Song. Dire, questa canzone è veramente molto bella, così come tutto l'album. Questo True Night del 2007 è sicuramente, a detta della cicogna nera, il migliore di Zulia Kamalova o Kamalova, questa artista russa nata in Udmurtia, precisamente andiamo a vedere in quale paese, Sarapul, ecco, dove è nata, che però è cresciuta nella Repubblica del Tatarstan, nella Repubblica dei Tartari, o dei Tatari più precisamente, perché ho letto che si incazzano un po' quando li si chiama, insomma ci si riferisce a loro, che poi questo loro è tutto da vedere con il termine di Tartaro, che viene quasi intesa come un'accezione negativa dell'antica mitologia greca del Tartarus, che sinceramente neanche la cicogna nera sa cosa vuole dire. Comunque Zulia Kamalova è cresciuta in questa Repubblica del Tatarstan, poi se n'è andata in Australia molto giovane e qui ha sviluppato il suo successo e si è fatta conoscere in tutto il mondo. Anzi, ha pubblicato da poco un album, si chiama Tales of Subliming, storie della sublimazione, forse qualcosa del genere, in questo 2010, e quello che ci è parso da un primo ascolto, l'ho ascoltato giusto ieri per la prima volta, è un allontanamento da quello che faceva, cioè dalla fusione della sua musica tatara, folk del suo paese con altre sonorità del mondo. Infatti pensate che si è sempre a balza di musicisti e soprattutto di strumenti musicali che arrivano da varie etnie e varie zone geografiche, come ad esempio la cora africana piuttosto che l'oud arabo, insomma un'esploratrice di mondi che in questo ultimo album ha lasciato un po' da parte la sua origine tatara e se n'è venuta un po' più da noi, proprio in occidente. Infatti l'ultimo album ha quasi sonorità che la possono far appartenere, per così dire, a una cantante mediterranea, e si sente molto la cupezza, la chiusura, qualche volta si sentono dei cori, insomma c'è qualche eco che ci fa andare indietro nel tempo, quasi al Medioevo. Comunque non ci resta la cosa migliore da fare, cioè quello di ascoltare un brano tratto da questo Tale of Subliming, o Subliming, non so la pronuncia. La canzone che ci andiamo ad ascoltare si chiama The Subliming of the Snow Maiden. Она рвется на волю, пена. semplicemente Zulia, il nome su quest'album, per quest'ultimo album, Tale of Subliming, di questo 2010, dell'estate del 2010, suo ultimo progetto, uscito naturalmente in Australia, per questa cantante tatara o tartara. E questa storia dei tartari e dei tatari è veramente complicata, mi ha appassionato un po', ma ho provato a dargli uno sguardo e non ci si capisce nulla, nel senso che si dice che i tatari sono un gruppo etnico sicuramente di origine turcica dell'Europa orientale e dell'Asia centrale, si dice che questo nome derivi da Tata o da Dada, che è una tribù mongola che abitò la Mongolia nel V secolo d.C., pensate. E poi ho sentito dire che da questa tribù, che poi fuggì a sud, non mi ricordo per quale invasione, insomma, da questa tribù uscì fuori quella di Genghis Khan, del Khan più famoso al mondo, che arrivò a conquistare, insomma, fino all'Europa orientale, il più vasto impero mai esistito al mondo. E oggi i tatari si usano per indicare diversi gruppi etnici che vanno dallo Xinjiang in Cina fino, insomma, alla Repubblica del Tatarstan, che prende proprio questo nome, che è una repubblica autonoma della Russia e che conta, insomma, la maggioranza della popolazione etnica è proprio di questo gruppo etnico, ma non si capisce bene perché molta della sua popolazione dice che loro non sono tatari, non appartengono ai tatari, ma sono i figli dei bulgari del Volga. Quello che è sicuro è che c'è un percorso veramente ampio e complesso, e c'è una mistura pazzesca, cioè quella degli elementi turchi, degli elementi mongoli, degli elementi urofinnici in questa storia dei tatari, che è interessato in antichità e continua a interessare e a trasformare tutte le etnie ancora oggi. Per quanto riguarda invece la musica, quello che abbiamo detto in precedenza, cioè quella che fa Zulia Kamalova o Kamalova, non so l'esatta pronuncia, e la sua musica, o almeno quello che nella sua musica vuole far risalire alla sua patria, al suo Tatarstan, e la sua musica tradizionale, che è anch'esso un elemento di una mistura, più che altro una pacianca di elementi turchi, ugrofinnici e di tutta quella, di tutte quelle influenze delle etnie, della popolazione che nel lontano XIII secolo, giù di lì, vennero verso Occidente. Forse la peculiarità maggiore della musica tatara rispetto della musica tatara del Volga, del Tatarstan, dunque pienamente quasi in Europa, è quella delle sue scale, che sono pentatoniche, a differenza, insomma, della nostra scala di 7 note. È una scala pentatonica che si può spesso accorpare o far risalire o trovare delle affinità con la musica cinese e vietnamita. Dunque veramente un mondo molto complesso che noi abbandoniamo subito e per andarci ad ascoltare invece i Gypsy della Russia. Non so precisamente da dove arrivano, è stato veramente difficile risalire al nome di quest'album, di questi artisti che si chiamano Zina e Georgi, o Guergui come c'è scritto qui, e sono, insomma, dei Russian Gypsy, probabilmente, anzi sicuramente appartengono al ceppo dei zingari romani, non so se appartengono proprio all'etnia dei Rom, probabilmente sì, in quanto l'Europa orientale, insomma, è caratterizzata da questa etnia. Quella che ci ascoltiamo, non mi ricordo da quale album, cioè non mi ricordo l'anno in cui è uscito questo album, so il nome della canzone, che si chiama Le Train de Tambov. ¡Gracias! sono le 9.30, siete ancora all'ascolto delle sonorità popolari contemporanee della Cicogna Nera, qui sempre dagli studi di San Lorenzo. Le frequenze 87.9 sono quelle di Radio Onda Rossa, la radio sicuramente più libera dell'etere capitolino. Noi questa sera stiamo attraversando un po' la musica che gira nella Federazione Russa odierna, sicuramente è uno spaccato così abbastanza arbitrario. Vediamo un po' le vecchie e le nuove musiche che girano da queste parti, sicuramente non quella più classicamente intesa o che siamo stati abituati ad ascoltare come musica russa. Forse questa invece è l'unica canzone della playlist di questa sera che si può definire come musica russa classica, cioè quella del gruppo che si chiama Stars of St. Petersburg, cioè le star di San Pietroburgo, che suonano la balalaika, uno strumento veramente esemplificativo di questa cultura, una delle canzoni più famose, Kalinka. Questa sì che è la musica russa, diranno i più all'ascolto in questo momento della Cicogna Nera. A questo punto entriamo nella capitale della Federazione Russa, andiamo a vedere un po' che succedeva prima e poi che succede oggigiorno da quelle parti. E quello che vi vogliamo proporre ora per prima è un cantautore e poeta magnifico, uno dei più conosciuti, è un cantautore che ha dato la vita al cosiddetto movimento della canzone d'autore in Russia. Ha composto oltre 200 canzoni, leggiamo da Wikipedia, è stato pluripremiato per la sua poetica, in effetti molti l'hanno riconosciuto più per i suoi romanzi e per la sua poetica che per la è propriamente il contrario, tutti quanti l'hanno riconosciuto per la sua musica, mentre a lui non gli andava molto bene così, perché non si riteneva un cantautore ma si riteneva maggiormente un poeta, e soprattutto il genere che lui ha composto, il genere che andava verso il canzoniere, è stato poi ripreso da cantautori occidentali quali ad esempio in primis Brassen. Non è moscovita proprio originale, per così dire, e infatti il padre è georgiano, si arriva da Tbilisi precisamente, la madre è armena, ma lui non sapeva nemmeno parlare queste lingue. E poi ci dice ancora note biografiche che nel 37 fu privato prima del padre madre durante le grandi purghe, le terribili grandi purghe, leggiamo, e poi invece anche dalla madre dopo pochi anni, perché fu deportata nei gulag. Dunque veramente uno sconforto immane per Bulat Okudzava o Okudzava, non so l'esatta pronuncia, quello che so è che uno dei maggiormente poeti e cantautori riconosciuti in sua patria. E la canzone che ridono dall'altra parte del vetro, ma vi assicuro che è così. Quello che sicuramente è che questa che andiamo a sentire ora è una delle canzoni che più toccano il cuore e che non è stata composta solo da lui ma anche da Isaac Swartz per un film, non ricordo bene quale, adesso lo andrò a cercare su internet, e alla cui voce troviamo, se non sbaglio, Yelena Kamburova. Наряд подвенечный и хор в нашу честь не споет, а время торопит возниц обеспеченный и просятся кони в полет, и просятся кони в полет. Ах, только бы тройка не сбилась бы с круга, бубенчик не смог под дугой. Две вечных подруги, любовь и разлука, не ходят одна без другой. Две вечных подруги, любовь и разлука, не ходят одна без другой. Сами раскрыли ворота, мы сами счастливую тройку впрягли. И вот уже что-то сияет пред нами, но что-то погасло вдали. Но что-то погасло вдали. Святая наука расслышать друг друга сквозь ветер на все времена. Две странницы вечных, любовь и разлука, поделятся с нами сполна. Две странницы вечных, любовь и разлука, делятся с нами сполна. Чем дольше живем мы, тем годы короче, тем слаще друзей голоса. Ах, только б не смог под тугой колокольчик, глаза бы глядели в глаза. Глаза бы глядели в глаза. То берег, то море, то солнце, то юга, то ласточки, то воронье. Две вечных дороги, любовь и разлука, проходят сквозь сердце мое. Вечных дороги, любовь и разлука, проходят сквозь сердце. eccoci qui. La pronuncia del pezzo non era esatta, non so, semplicemente sono andato alla ricerca del titolo di questo film, addirittura adesso che ve lo stavo per leggere mi è scaduta la connessione. Vediamo se lo ritrovo un attimo. È un nome altamente impronunciabile quello di questo film. Quello che mi ricordo, cioè che ho appena letto e che mi ricordo, è che è stato girato nel 1982 da Boris Tokarev. Sinceramente non l'ho mai sentito. Vabbè, il nome di questo film era impronunciabile, quindi è inutile che vado a ricercare per proporvelo. Quello che è sicuro, che mi raccomando, sentitevi un po' Bulat, questo cantautore russo degli anni 70-80, insomma, grande storia per lui nella sua patria e anche all'estero, soprattutto per i cantatori occidentali. Allora, ancora restiamo a Mosca perché, e facciamo anche un passo indietro contemporaneamente, perché andiamo a sentire ancora gli Hunkurtu, quei tumani là che abbiamo ascoltato in apertura. E li ascoltiamo in un altro progetto, sicuramente è stato ripubblicato in questo 2010 sempre per la Yaro, questa etichetta tedesca. L'album si chiama Legend, scusate, vede partecipanti, oltre a questo ensemble tuvano tradizionale folclorico, anche The Bulgarian Voices Angelite, cioè il coro delle voci bulgare, insieme al Moscow Art Trio, un trio appunto, come potete capire facilmente dal nome, che arriva da Mosca e che ha la peculiarità di essere sopra i generi. Loro tre hanno avuto una formazione, mi sembra proprio uno jazzistica o comunque sulla musica di improvvisazione, uno altamente classica, se non mi ricordo male, ho letto da qualche parte che ha suonato per il teatro, uno dei teatri più famosi a Russia, forse mi possono aiutare qui in studio. No, non mi ricordo, poi se mi ricordo ve lo dirò. E un altro, che colui che suona il clarinetto, che è altamente impregnato di musica folclorica, di musica etnica. Loro hanno formato questo trio e hanno contribuito a dare vita all'album del coro delle voci bulgare. Sinceramente non sono presenti in tutte le canzoni, anzi in alcune sono quasi inesistenti come sonorità. Quella che vi propongo ora, che si chiama New Skomoroi o Skomoroi, è l'unica canzone, forse la canzone dove loro si esprimono un po' di più. We'll be right back. In questa canzone dell'album The Bulgarian State Voice of oddio, forse ho sbagliato qualcosa. Comunque il coro è quello delle Angelite, perché dovete sapere che si distinguono in due: il coro delle voci bulgare, il coro il mistero di queste voci bulgare, di queste donne che arrivavano dalla campagna, da una condizione rurale, e che oggi sono diventate famose in tutto il mondo proprio grazie alla loro istituto, come dire, al loro ingresso nella radio e nella televisione, perché si sono proprio divise in due. Un gruppo fa parte della televisione, nel senso che fa programmi, va a cantare per la televisione, l'altro, quello del coro delle Angelite che ci siamo appena ascoltati, invece funziona soprattutto alla radio. Il Moscow Art Trio, uno dei componenti di cui vi parlavo, ha lavorato per la compagnia del Bolshoi, ecco quello che non mi veniva, questa compagnia molto famosa in tutto il mondo. E per quanto riguarda invece queste voci bulgare che avete ascoltato e che ci siamo già ascoltati sicuramente in più di un'occasione qui alla Cicogna Nera, è un canto aperto, è un canto che arriva direttamente dalla gola, non è frutto di impostazione, è un canto ricco di armonici, è un canto dissonante, sì, è un canto che loro utilizzano per seconde minori spesso. Infatti, se ci fate caso, non è che è proprio chi è abituato all'armonia tonale occidentale gli faccia piacere sentire il canto bulgaro, però poi dopo un po' ci si abitua, quasi che avesse una forza così magica, misteriosa, per cui ti penetra nelle ossa e nel cuore questo canto bulgaro che va per seconde minori, seconde dissonanti, che scivola per quarti di tono. Uno dei canti, forse il coro più bello al mondo, a seconda della Cicogna Nera naturalmente. Ce lo siamo ascoltati e ce lo ascolteremo in futuro. Ora andiamo avanti per la playlist, andiamo ad ascoltare le ultime tre canzoni di questa sera. L'ultimo gruppo, forse il più contemporaneo sicuramente di quello della playlist di questa sera, arriva sempre da Mosca, si chiamano Pakava It. Sono quasi una fanfara, ecco, una fanfara piena di ottoni. C'è un contrabbasso, un sassofono, ci sono il clarinetto, non lo so, sicuramente ci sono le trombe, ci sono i sax. La loro musica è sicuramente un target, una targhetta che si può definire ska. Lo ska si sente quasi praticamente dappertutto nelle loro composizioni. Poi fanno verso parecchie volte al funk e anche, perché no, alle fanfare balcaniche. Soprattutto sono una macchina da guerra dal vivo, questi Pakava It, che l'anno scorso arrivano alla pubblicazione di Superground High Speed Crossover, un album che semplicemente si ripete in molte sue canzoni, nel senso che la fanfara, lo ska, questo ska è quasi sempre uguale a se stesso. Naturalmente il cantato è quasi assente, eccetto per l'ultima canzone, quella che ci ascoltiamo questa sera, forse è una delle tracce più riuscite, si chiama Se 2. We'll be right back. salutiamo, mentre invece il ritmo di questi Pacava accelerano su questa canzone, perché il tempo della cicogna nera sta scadendo. Ci sono rimasti gli ultimi 5 minuti per questa playlist. In Octibus Panis si sta già accomodando qui negli studi di Radio Onda Rossa, poi prenderà il nostro posto, e noi da Mosca andiamo a San Pietroburgo per le ultime due canzoni, forse l'ultima, non so se ce la facciamo a trasmettere l'altra. Comunque, sulla stessa linea dei Pacava Hit si collocano un nome tutto tedesco, in Mark Scheider Kunst, che dovrebbe essere qualcosa a che fare con la scuola per geometri o l'università di architettura, non ho capito bene. Comunque loro si rifanno a questo nome tedesco perché si sono conosciuti tutti nell'ambito di questi studi, e sicuramente la cicogna nera li preferisce ai Pacava perché sono anch'essi pieni di ottoni, dunque sono anch'essi una brass band, una fanfara, ma vanno molto di più nelle direzioni del mondo, fanno rumba, fanno Latin jazz, fanno ska, sicuramente anch'essi si richiamano al gypsy molto di più, insomma fanfara ma anche molto molto canzone. E allora andiamoveli a proporre, hanno fatto ben 5 album, pensate, io li ho conosciuti giusto pochi giorni fa, 2010, East Block l'etichetta, l'album si chiama Utopia, la canzone che ci andiamo ad ascoltare è proprio, se ce la faccio a metterla in playlist, quella che dà il titolo all'album. Intermezzo rientriamo perché alle 10 in punto il nostro tempo finisce, Noctibus Panis è già qui e noi vi diamo appuntamento giovedì prossimo alle 21 molto probabilmente. Chiudiamo, vi facciamo sentire giusto l'intro di un pezzo che magari vi ritrasmetteremo, hip hop che arriva da San Pietroburgo. Lei dalla faccia non mi sembra proprio russa, probabilmente ha origini yemenite, infatti il pezzo che andiamo ad ascoltare tradotto si chiama proprio Yemen 94. нами. Рискую быть убитым, вывезти ее из страны. За ним охотились головорезы и штаны. По приговору его дни были сочтены. Йемен был на пороге гражданской войны. Мы подрастали с Ленкой, не зная горя. В стране было спокойно, затишье перед бурей. Наша семья решила в Аден переехать жить, чтобы поближе к европейской культуре быть. Разматывая нить своего повествования, я подхожу к главному, началу восстания. Внимание, время идет только вперед. В Йемене настал 94-й год. Было душно и тоскливо. Небо внезапно озарилось вспышкой от взрыва. На улице раздались выстрелы, потом крики. По стенам бешено метались огненные блики. Мы с Леной побежали на балкон, не зная, в чем дело. Интересно было, что же там горело. Я задала отцу вопрос: это салют, да? Папа ответил тихо: нет, это война. Последнее, что помню: трюм, шум, страх. Беженцев переправляли на военных кораблях в Алжир, на французскую военную базу. Спаслись немногие, погиб сразу. Отец остался дома, не захотел бежать. Решил, что будет до последней капли крови воевать за убеждение, за честь родной земли. Запомни это имя, Ахмед Саид Али.